questo rispetta, diciamo che è una di quelle cose che non può delegare. Come dare motivazione a un team, come creare attorno all'idea del progetto qualcosa che sia l'elemento, la benzina, il sostegno, la linfa vitale del team stesso. Ora questo noi lo sappiamo, non ci viene né dal project charter né da un piano ben fatto, anche da un mandato magari scritto dalla persona più importante dell'azienda o altro. E quindi ci sono altri elementi con cui un PM può costruire o cercare di costruire questo, questa proiezione, questa prospettiva attorno alla quale i suoi collaboratori si sentono parte. E volevo proprio chiedere a lui su questo che cosa ha da dirci, perché anche di questo lui si è occupato e si sta occupando. Grazie. Bene, grazie a Ginevri e grazie anche a Balanini che ormai mi stanno coinvolgendo ormai da diverso tempo in questo percorso con voi capi progetti e associati a questa associazione. Intanto volevo dirvi questo, che quando leggevo così il gruppo dei componenti della tavola rotonda e vedevo che c'erano pittori, musicisti, artisti, mi ricordo, mi è venuta in mente la frase di Orazio che diceva a un suo amico: se il tuo figlio dimostra dei carismi, fagli fare le arti, se invece è un po' rozzo, fagli fare ingegneria. Ecco, siccome io sono un ingegnere, mi è venuto un brivido quando ho visto che dovevo confrontarmi con tutti questi, diciamo, appunto, diciamoci la verità, occuparsi di arte è un grande privilegio, e quindi fare pittore di artisti è sicuramente un punto di ma chissà mai se da grande forse ci arriverò anch'io. Allora, io quando appunto Ginevri mi ha chiesto ma cerchiamo di fare qualcosa di utile un po' fuori dagli schemi, a questo punto fuori per fuori, fuori al quadrato, e vi voglio parlare di sogno, di mito e di visione. E voi dite che cosa c'entra tutta sta roba? Ma cercheremo di capirlo alla fine magari, però sostanzialmente voi che gestite gruppi, alla fine, se mi consentite una semplificazione, le logiche sono due: o si va su regole stringenti, o si va tutto sull'informale, e quindi polarizzare tutto il coordinamento in maniera auto-organizzata attorno a una visione condivisa. Per cui io cercherò di, brevemente, perché abbiamo sti 10 minuti, un quarto d'ora, cercherò di farvi vedere come, a mio modesto avviso, la condivisione della visione è molto più forte. È più difficile, certo, perché le regole le sanno fare tutti, il problema vero è che poi le regole comunque non sono sufficienti, perché non sono mai, e poi tutto cambia, le regole sono sempre vecchie, e quindi in realtà o andiamo sulla visione condivisa o comunque quel tipo di management, un management è sempre alla rincorsa, sempre molto, molto difficile. Allora, parliamo di sogno. Io ovviamente non sono un esperto di sogno, però ho ben chiaro quello che vi ha detto prima Ginevri, cioè i sogni sono il vero motore che possono, che può muovere l'uomo, no? Ecco. E non c'è solo Luther King, perché anche gente come Havel, come Mandela, come Gandhi avevano dei grandi sogni, non avevano potere politico, eppure hanno rappresentato quelle minoranze che poi cambiano le storie, no? Ecco. Quindi io sono andato a vedermi un po' di affermazioni sui sogni, quindi prendo qualcuna che mi ha colpito. Sandburg dice: nothing happens unless first a dream, cioè non capita nulla se non c'è prima un sogno. Oppure Walt Disney dice: se lo sogni lo puoi fare. Oppure Jim Morrison, quello dei Doors, dice: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. E qui si potrebbe continuare molto sul tema del sogno a livello dei singoli, però in questi anni, perché io ormai sono alcuni anni che sto monitorando questa questione dei sogni, vi cito alcuni slogan di grandi aziende. Sky: non smettere di sognare. Onda: il potere dei sogni. Panasonic: Dream Ideas. American Express: lunga vita ai sogni. BMW: se non avessimo sogni non potremmo realizzarli. Audi: nulla ferma chi ha deciso di sognare senza vincoli. Vodafone: mi sento protagonista di un sogno. Trenitalia: teniamo uniti i vostri sogni. Mercedes-Benz: nuova classe S, il sogno continua. Unicredit: a tutti quelli che hanno un sogno dedichiamo una banca su misura per realizzarlo. Flu: il più grande assortimento di sogni. E si potrebbe continuare. Cioè, in realtà i sogni sono... tutti hanno un proprio sogno da bambino. Quindi le cose... non è... guardate Spielberg, che è un regista che io amo, guarda caso, ha chiamato la sua casa DreamWorks, cioè proprio lavori da sogno. Quindi, proprio nel libro, cioè io Spielberg credo di aver visto questi tutti i film, c'è nel film di intelligenza artificiale, c'è l'autore, il protagonista, che dice: il più grande dei doni in cui l'animo umano è fornito è l'abilità di inseguire i nostri sogni più intimi. Ecco. Quindi sostanzialmente se noi vogliamo gestire gli uomini dobbiamo tenere presente che ognuno ha dei sogni, e quindi o noi siamo sensibili a questa dimensione oppure è difficile pensare di motivarli. Nell'attimo fuggente, che io spesso utilizzo, perché alla fine c'è il professore che monta sul banco, io lo minaccio sempre, non l'ho ancora fatto ma lo farò, il protagonista dice: ma perché i sogni sono importanti? E l'autore dice: perché solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. Ecco. Quindi ecco, la dimensione del sogno è una dimensione che nel management è trattata pochissimo, e invece secondo me è una dimensione fondante. Adesso faccio un passaggio in là e arrivo al mito. Qui ho imparato da Varanini, sono andato a vedermi cosa vuol dire mito, E mito deriva dal greco mutos, che vuol dire un seguito di parole che hanno un senso, cioè i miti danno un senso. Qui c'è un'altra grande nostra esigenza degli uomini, e abbiamo bisogno di senso. E allora i miti, anche poi sono andato a studiarli, perché purtroppo in ingegneria non insegnano queste robe, e quindi sono dovuto studiarle dopo. Cioè i miti in realtà sono degli strumenti che accompagnano la transizione, che accompagnano il cambiamento. Ma allora attenzione ragazzi, i project management gestiscono i cambiamenti, e quindi bisogna fare ben attenzione ai miti, perché i miti sono quelli che portano da una stazione di partenza a uno d'arrivo. La transizione fa paura perché c'è l'ignoto davanti, e quindi i miti sono degli strumenti collettivi che aiutano le trasformazioni. Tant'è che i miti poi hanno tutta una loro tempificazione, prevedono sempre quattro fasi. C'è la fase iniziale del caos, poi improvvisamente c'è la distinzione dal caos con la nascita di un eroe che cerca di dare ordine, poi improvvisamente c'è la terza fase dove l'eroe rischia di soccombere, e poi infine c'è la quarta, che l'eroe vince. E se ci pensate, poi è la nostra storia. Noi siamo prima indeterminati insieme a nostra madre, poi improvvisamente c'è la distinzione, poi abbiamo le difficoltà della vita, poi alla fine finalmente diventiamo adulti e vinciamo la nostra battaglia con la vita. Quindi in effetti sono quattro fasi nel mito, sono quattro fasi le nostre della vita. Quindi sostanzialmente i miti, e tra l'altro i miti sono molto importanti nelle religioni, qui ancora Varanini mi insegnerebbe che religione deriva da religare, quindi impacchettare una serie di eventi e dargli un senso ancora una volta, cioè i miti sono fondamentali anche nelle religioni. Quindi sostanzialmente i miti sono quelli che aiutano, sono il vettore del cambiamento. Ecco. Pensate alla terra promessa, al mito ebraico per eccellenza, ma pensate anche all'arca di Noè. Cioè siamo pieni di miti che ci aiutano ad affrontare i cambiamenti. Allora, il sogno è l'immaginario del singolo, il mito è l'immaginario del sociale, la visione è l'immaginario dell'organizzazione. Quindi un'organizzazione senza visione è una nave senza meta, allo sbando completo. Quindi la visione di un'organizzazione ha le stesse funzioni di un mito a livello sociale, è quello che guida il cambiamento. Se non avete una visione, se non riuscite a formulare e a far condividere la visione, non avete le condizioni fondanti per gestire il cambiamento. Voi pensate di gestire il cambiamento con le regole? Sarà durissima, perché il problema vero è che siccome per quante regole facciate saranno sempre insufficienti, il problema vero è rendere auto-organizzato, auto-governato da tutti i componenti il processo di cambiamento. Okay? Bene. A questo punto la domanda è, ma come facciamo a far condividere la visione? Ammesso che ne abbiamo una, ma speriamo di avercela, il problema vero è come renderla condivisa. Allora, primo elemento, ve ne dico tre. Primo elemento, la visione come emozione. Perché gli uomini sono fatti non solo di ragioni, anzi le emozioni forse sono più importanti. E quindi qui io vi cito soltanto l'Enrico V di Shakespeare, quando Enrico V nella battaglia di Agincourt deve motivare i suoi uomini che sono 1-10 contro i francesi, lavora sulle emozioni. Lui termina con quella frase famosa che a me piace molto: ogni cosa è pronta se anche i nostri cuori lo sono. Cioè lavora sui cuori, mica li fa la lezione di strategia, lavora sulle loro motivazioni. D'altronde qui si potrebbe fare altri esempi. Pensate, John Kennedy usa la frontiera americana del Far West negli anni 60 quando la porta nello spazio. Cioè queste grandi, diciamo, cioè, le visioni vanno giocate sulle emozioni. C'era il grande West, poi la grande conquista dello spazio, eccetera. Quindi il primo è l'emozione, il secondo è la visione come realtà, cioè quando le visioni sono attaccate a un cartello, come spesso ho visto insieme ai codici, eccetera, rischiano di essere scimmiottamenti, perché guardate che o la visione viene resa reale, e qui c'è il ruolo anche del capoprogetto, oppure rischia di essere una cosa appesa a un muro, lontana. E quindi qui il problema vero è che bisogna rendere realistica la visione, e quindi bisogna che ci sia l'esempio di come sia possibile passo dopo passo rendere reale questa visione. Poi c'è il terzo punto, che è la visione di tutti. Allora, è demagogico pensare che formulata una visione tutti la condividano, per cui il tema della contraddizione, la presenza dei contestatori, le differenze non sono cose da reprimere, ma sono cose da far emergere e da gestire, perché appunto la complessità non va ridotta ma va assorbita. Prima è stata quella bella domanda, diceva, ma vorrei dei riduttori di complessità. Attenzione, la domanda va posta in maniera diversa: ci vogliono degli assorbitori di complessità. E qui non vorrei fare un gioco di parole, ma altrimenti mangio troppo tempo. Nel secondo giro vi racconto la risposta. Grazie.